Irrinunciabili per RadioBigWorld.com presenta Scarface, un film di Brian De Palma. Protagonista assoluto di Scarface è la figura di Tony Montana, che troneggia per tutto il film. L'interpretazione di Al Pacino è gigantesca, perché Tony è rozzo, volgare, dall'ego smisurato. Non riesce ad avere empatia con le altre persone. Mostra un po' di affetto solo nei confronti della madre e della sorella, anche se in una chiave estremamente possessiva. Nonostante questo, Al Pacino riesce a rendere il suo personaggio affascinante, tanto da risultare un'icona, entrata di diritto nell'immaginario collettivo. Tony Montana rappresenta il gangster, in una delle sue forme più pure. Vuole il potere, è una ricca vitaggiata. Per farlo è pronta a tutto. È un esule cubano, nulla tenente. Per lui l'America, Miami, è la terra delle opportunità. Più volte nel film vedremo uno slogan pubblicitario. The world is yours. Il mondo è vostro. Scandisce molto bene la scalata di Tony, perché alla fine, per quanto in chiave criminale, Scarface è un film sul sogno americano e sull'America, dove puoi tenere quello che vuoi, se lavori sodo e se sei determinato. Molte le battute memorabili. Alcune rappresentano bene la filosofia di Tony. Lo sai che significa capitalismo? Fregare la gente. Oppure, in questo paese devi fare la grana prima, e quando hai fatto la grana c'è il potere, e quando hai il potere c'è pure le donne. Il film è esagerato, come la Miami degli anni Ottanta in cui è ambientato. Da un lato il lusso sfrenato, kitsch, in cui Tony vive. Dall'altro tutta la violenza che è stata necessaria per raggiungere gli scopi prefissati. Parte di questa esagerazione però non si evince nella versione italiana del film, prevede il doppiaggio. Al Pacino recita con un esagerato accento cubano, nella versione italiana questo aspetto è stato del tutto trascurato. Inoltre, una delle frasi più iconiche del film e di tutta la storia del cinema, "Say hello to my little friend", è stata completamente stravolta. Al Pacino si riferisce all'ettare M203 lanciagranate che tiene in mano, mentre in italiano si perde completamente questa connotazione. Inoltre la parola fuck viene detta 226 volte, l'equivalente in italiano solo 25. Nonostante il doppiaggio italiano, vedremo Tony scalare le gerarchie del crimine. Arriverà a mettere in discussione il suo capo, a volere la sua donna, Elvira, una Michelle Pfeiffer glaciale, perché non è mai abbastanza, non esistono i limiti. Come infatti in uno scambio di battute dirà al suo amico Manny. Tu accontentati, io mi prendo tutto quello che posso. Una tale ingordigia però ha un prezzo. Lo sfarzo eccessivo in cui vive Tony, l'abuso di droga, lo porteranno a perdere la lucidità e il senso con la realtà. Scarface è anche un film tremendamente attuale. Semplici ragazzi da tutto il mondo, oppure esponenti del crimine organizzato, lo imitano e glorificano ancora oggi. È un mito. Che la cosa piaccia oppure no. Boss mafiosi hanno ville arredate sullo stile di quella di Tony Montana e come lui tengono tigri e leoni in gabbia. Quello che lo rende così affascinante è il suo essere vero, crudo. Il destino di Tony Montana era già segnato fin dall'inizio. Nel film non ci sono moralismi. Tony fa quello che deve fare perché ha le palle per farlo, mentre le persone comuni che disprezzano. Sa che non arriverà un aiuto da nessuno, mai. Deve fare tutto da solo. Così, De Palma alla regia e Stone alla sceneggiatura creano l'unico film, ancora più del Padrino, che è saldamente presente all'interno delle varie culture criminali di tutto il mondo. Il finale è l'esaltazione dell'autodistruzione, un tripudio di pallottole, follie e cocaina. Leggenda. Buona visione.